Marino, il presidente dell'Associazione Lettera 7, Sabrina Najafi, presidente Associazione Donne Libere Iraniane, e naturalmente la nostra cara autrice che conosciamo, Nina Sadeghi. Vi ringrazio. Abbiamo anche un bellissimo pubblico, vi ringrazio di partecipare alle nostre iniziative, la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che ha sede qui presso il Centro Trevi al piano terra da anni, costruisce e ci tiene molto ad avere un rapporto costante con le associazioni culturali del territorio, in particolare, come da anni conosciamo appunto Roberto Marino, vedo qui che c'è anche il nostro Fulvio Ramingo, che ci aiutano, ci danno sempre degli stimoli anche per nuove iniziative, e questa occasione è una di questi stimoli che abbiamo ricevuto. Ne approfitto sempre per fare dei piccoli spot per conoscere e far conoscere la nostra attività, che è destinata e dedicata a un pubblico ampio. Quindi abbiamo il 25 marzo alle ore 17:30 una conferenza dedicata ai boschi e alle società nelle Alpi, il caso della Valle di Fiemme nell'Ottocento. Parteciperanno come relatrici e relatori Katia Occhi, che è dell'Istituto di Studi Italo-Germanici a Trento, e Lucia Tedesco, che lavora e insegna presso l'Università degli Studi di Torino. Fa parte di un insieme di incontri, ambiente, mercati e comunità, che stiamo svolgendo, e sono 4 incontri. Mentre il giorno mercoledì 26 incontreremo Marina Michelotto, un'altra autrice del nostro territorio, che presenterà il suo libro Vivere di lunedì. E sarà con noi anche Maria Pia Zanetti e Daniela Nicoletti, saranno con noi. Non vi dico altro, non aggiungo altro, la biblioteca provinciale è aperta tutti i giorni, quindi se avete piacere di ricevere via mail le informazioni o essere così in contatto con noi per scoprire, conoscere le iniziative che organizziamo per il nostro pubblico 2 volte alla settimana, basta telefonare oppure passare di qua e iscriversi, che è tutto gratuito e facciamo più che volentieri conoscenza con voi. Grazie intanto, buona serata, un arrivederci, a presto. Buonasera a tutti. Allora, io sono Roberto Marino, sono il presidente dell'Associazione Lettera 7. E mi è stato chiesto di fare una breve introduzione a questa serata, a questa importante presentazione di questa antologia. E saluto Rossella Renzi, che ho avuto il piacere di conoscere pochi minuti fa, che è una poetessa e anche autrice di volumi e anche promotrice di vari eventi culturali. E poi Sabri Najafi, che è un'attivista iraniana per i diritti delle donne specialmente, e poi saluto le amiche Barbara Gramegna e Nina Sadeghi, che conosco da anni, sono tra le fondatrici di Lettera 7. E niente, poi dico brevemente quello che fa la nostra associazione, qui ci sono anche diversi nostri amici simpatizzanti. E la nostra associazione si occupa di cultura, di letteratura. Facciamo presentazioni di libri, organizziamo conferenze e promuoviamo la cultura un po' in tutta la regione. E tra di noi ci sono anche degli artisti, quindi si fa sia poesia, letteratura, ma anche arte, insomma. E sempre per cercare di coinvolgere le persone a, diciamo, a impegnarsi nella cultura, che è sempre importante. In questo caso, appunto, ho scoperto da poco che questa casa editrice Argo ha fatto un appello per sostenere le scrittrici e gli scrittori che vivono in difficoltà in Iran, e molti di loro sono anche incarcerati. E quindi qualsiasi evento che si fa per questa promozione, diciamo, della cultura a vasto raggio, insomma, può anche aiutare queste persone che si trovano, diciamo, in un regime dittatoriale. Ecco, e buona serata, buon ascolto a tutti. Buonasera a tutti, grazie alla Biblioteca Provinciale Clavio Augusta per l'ospitalità e all'Associazione Lettera 7 e alla Micanina Sadeghi che mi ha invitato per questo evento. Sono molto contenta di essere qui e sono molto contenta di parlare di questa pubblicazione nuova, tra l'altro, perché abbiamo una versione dell'antologia di cui parleremo rinnovata rispetto a quella che vedete nella locandina. Vi racconto un po' la storia sia della casa editrice che ha pubblicato questa opera che poi dell'opera stessa. E la casa editrice si chiama Argo Libri e è nata 5 anni fa come casa editrice, ma nasce da una rivista che è stata ideata da un gruppo di studenti dell'Università di Bologna nel 99, per cui siamo attivi da 25-26 anni come gruppo di lavoro e nel frattempo siamo cresciuti, abbiamo intrapreso le nostre strade, però siamo rimasti uniti a lavorare appunto nella produzione, in questo caso di libri oltre che di contenuti culturali. E potete trovarci sul nostro sito internet che è www.argonline.it, che ospita una rivista online e poi appunto come casa editrice. E la casa editrice si occupa di vari settori e io in particolare curo una collana intitolata Territori che ha l'obiettivo di esplorare di volta in volta un territorio di nostro interesse, soprattutto legato alla poesia perché è il mio ambito, diciamo, di studio e di ricerca. Come nasce l'idea di questo libro? Diciamo che Argo e la casa editrice Argo Libri non è una realtà diciamo esperta nella poesia persiana, però è una realtà attenta a quelli che sono i diritti umani. Nel 2018 abbiamo avuto il primo contributo di una poetessa iraniana che si chiama Zam Bahrani, di cui abbiamo pubblicato delle poesie sulla nostra rivista e su un annuario di poesia che appunto fu pubblicato nel 2018. Da lì poi la collaborazione con questa poetessa che è anche un'attivista per i diritti delle donne che vive in Italia, appunto la collaborazione è continuata e nel 2023 al Polo del Novecento di Torino abbiamo creato un evento intitolato Donna Vita Libertà, che appunto si rifà al movimento dei diritti delle donne iraniane, perché proprio in quel periodo sentivamo con urgenza la necessità di conoscere, indagare e poi far conoscere quello che stava succedendo in Iran, soprattutto per quanto riguarda la vita di artiste, di artisti, di poetesse, di poeti che appunto non potevano liberamente esprimersi nel loro paese. La stessa Azam Bahrani che ha diciamo collaborato in primis a questo evento è dovuta fuggire dal suo paese perché è perseguitata per quello che aveva scritto e vive in Italia con lo stato di rifugiata. Da quell'evento a cui hanno partecipato diversi attivisti e attiviste con sia contributi in presenza, quindi letture e riflessioni, ma anche a distanza, alcuni non sono potuti venire a Torino perché non avevano avuto magari il permesso per uscire dal loro paese, eccetera, per cui è stato anche emotivamente abbastanza forte come incontro. Ci è venuta l'idea appunto di cercare altre voci che si trovassero nella stessa condizione e così grazie all'aiuto poi di altre redattrici e traduttrici, tra cui anche Nina Sadeghi che ringrazio moltissimo, abbiamo raccolto e ospitato una serie di voci di poetesse, di un poeta che appunto vivono questa situazione di esodo e di privazione della libertà di espressione di parola, soprattutto per quanto riguarda la loro attività di poeti e di poetesse. Bene, e nel 2024, dopo un anno, abbiamo pubblicato la prima versione del libro che vedete con questa copertina, ed è stata una prima versione disponibile solo in ebook, contenente anche delle opere sia in fotografia che in opere visive, quindi dipinti, di una pittrice iraniana che vive in Italia, che si chiama Leila Raimian, che poi abbiamo di cui abbiamo utilizzato un'opera per la copertina. Questo è stato il primo step. Abbiamo presentato l'antologia in diverse occasioni, tra cui anche al Festival di Poesia alla Punta della Lingua, che si svolge nel mese di giugno-luglio ad Ancona, e lì abbiamo ospitato Nina con letture, con riflessioni. C'era anche un esponente di Amnesty International. Abbiamo comunque avuto modo di riflettere molto sul tema della censura e dei diritti umani. E poi quest'anno abbiamo così sentito veramente l'esigenza, visto che comunque il libro è molto richiesto, le presentazioni sono state tante, di realizzare l'opera in formato cartaceo. E quindi è venuto questo volume, che contiene appunto una prefazione firmata da me e da Claudia Valsania, che è l'altra redattrice di Argo con cui ho collaborato alla realizzazione di questo libro, e le poesie di sette poetesse e di un poeta, in lingua originale con testo a fronte. Sulla questione della traduzione bisogna soffermarsi un attimo, perché il libro contiene sia testi in lingua persiana originale tradotti in italiano, ma anche testi che sono stati presentati a noi in inglese, perché già tradotti dal persiano, perché molte di queste autrici vivono in paesi europei e solitamente pubblicano in inglese, per cui c'è, come dire, una pluralità di lingue e di versioni, ed è stato complesso, ridurre un po' tutto a un messaggio, se vogliamo dire, univoco, però è stata grande veramente la collaborazione e l'aiuto delle traduttrici. Voglio ricordare Pina Piccolo, che è una nostra collaboratrice che si occupa di traduzione, la stessa Nina ci ha aiutato moltissimo, e poi i nomi sono tanti, e poi se avrete modo di sfogliare il volume ve ne renderete conto. Un'ultima cosa, anzi una penultima, vorrei leggervi qualche riga della prefazione, perché la trovo particolarmente significativa. Poi sul tema della censura e dei diritti avremo modo di ascoltare le persone che sono qui al tavolo con me, però ci sono veramente alcune parole su cui mi piacerebbe soffermarmi un attimo, in particolare queste. Ci sono luoghi nel nostro tempo in cui la poesia è una creatura irregolare, è costretta a nascondersi o a fuggire, a inventare strade e spazi alternativi che fermentano nell'ombra, lavorano nel sottosuolo. Sono movimenti di resistenza verso le varie forme di controllo e di censura esistenti. Agiscono per dare respiro alla propria essenza, per esprimere senza catene e con energia rinnovata quella ricerca di libertà e di bellezza a cui da sempre, attraverso il fare poesia, tende la natura umana. Prima di lasciare la parola all'attivista Sabri, volevo solo spiegarvi un attimo la nuova versione della copertina, che ha dietro un lavoro ricerca che i nostri grafici della casa editrice hanno voluto fare veramente con tanto coraggio, perché sulla copertina ci sono tutti gli elementi di contorno che riguardano il volume, a partire da ovviamente il nome delle autrici e degli autori, dei curatori, poi ci sono i nomi dei traduttori e delle traduttrici, ci sono i dati tecnici del libro, quindi il colophon, c'è una citazione della poetessa persiana molto nota, una delle più conosciute e delle più amate, che è Farrukh Farrokhzad, che dice: pianterò le mie mani in giardino, diventerò verde. Lo so, lo so, lo so, e le rondini nell'incavo delle mie dita sporche d'inchiostro deporranno le uova. oltre alla traduzione della citazione c'è anche la citazione in persiano. Allora, tutti questi elementi sono stati raccolti e concentrati in un piccolo spazio della copertina, vedete in basso, proprio con un intento di dare questa idea di schiacciamento e anche di oppressione, che è un po' quella che vuole dare il volume e le poesie che sono contenute al suo interno. Ma allo stesso tempo c'è una sorta di spinta che va verso l'altro, perché quello che cerchiamo di appunto liberare è proprio questa energia, questa forza. Il volume si chiama forme di resistenza nella poesia persiana, e quindi tutti questi concetti, i nostri grafici, che sono Francesca Torelli e Paolo Rinaldi, hanno voluto esprimerli anche nella elaborazione grafica della copertina. E la quarta di copertina ha un punto esclamativo, ma che può essere anche un punto interrogativo, che vuole in qualche modo ricordare, sottolineare il senso di affermazione e la rivendicazione della libertà di espressione, che purtroppo in molti contesti oggi, ancora nel 2025, è troppo fragile. Bene, io concludo qui il racconto e l'intervento, poi se qualcuno sarà interessato al libro sono qui a disposizione. Grazie. This is a visual narrative of more than four decades of violence and discrimination against women in Iran. History of beatings, acid attacks, sexual assaults, imprisonment, rape, and murder. From the birth of women protests against compulsory hijab on March 8, 1979, to its evolution to the Woman Life Freedom Movement following the brutal murder of Mahsa Amini on September 16, 2022. Sento le ciò mi dà, dovrebbe da sigaro. Equality and justice. Women in Iran have used acts of civil disobedience and the use of resistance art, music and dance in public spaces to defy the draconian and ideological laws imposed by the Islamic government of Iran. Continues and has intensified, and so has the acts of resistance, civil disobedience, and defiance. Buonasera a tutti. Stasera si parla di poesia e io dico la donna è poesia. E in Iran la poesia drammatica che ha tantissima speranza per finire questa situazione che abbiamo in Iran. Avete visto tanto, ma quello che io vorrei parlare è dare i dati dal 1979 ad oggi, come la situazione è cambiata per le donne iraniane. Il 7 marzo del 1979, prima dell'istruzione della Repubblica Islamica, Khomeini, che da poco era tornata in Iran, parlando con i giornalisti, annunciò che le donne nei luoghi pubblici avrebbero dovuto indossare il velo. Il giorno dopo, 8 marzo 1979, quelle stesse donne che al fianco degli uomini avevano contribuito alla riuscita della rivoluzione scesero nelle piazze in diverse città iraniane. Le manifestazioni però seguirono per 6 giorni prima di finire in un nulla di fatto e possono essere considerate come la prima forma di resistenza nei confronti del nascente regime, la prima dei successivi 46 anni attuata dalle donne così precedentemente sorprese e deluse dalla rivoluzione. Purtroppo gli uomini non le sostennero e anzi le attaccarono, ritenendo erroneamente che l'obbligo del velo fosse solamente il frutto acerbo di una rivoluzione ancora da concretizzarsi. Un atteggiamento di scarso sostegno che continua anche dopo la nascita della Repubblica Islamica. La religione, la tradizione, le strutture patriarcali, i bassi livelli di alfabetizzazione e di istruzione, la propaganda di Stato, il controllo ideologico, la brutale repressione, tutto agiva contro di loro. Nonostante questo, le donne non sono rimaste in silenzio. All'obbligo di indossare il velo, che è diventato presto in legge dello Stato, si sono aggiunti molti altri problemi con i quali le donne hanno dovuto fare i conti quotidianamente. Molte sono le leggi, infatti, che le discriminano. Basti pensare che una donna per ottenere il passaporto ha bisogno dell'autorizzazione scritta del marito e se è sposata oppure dal padre nel caso sia nobile. In caso di eredità alla donna spetta la metà di ciò che spetta all'erede maschio. In caso di divorzio invece la custodia dei figli spetta al padre, mentre se vedova ai parenti maschi del marito defunto. L'uomo che ha il diritto di divorzio e di cambiare casa o città per la famiglia. L'uomo ha il diritto di sposarsi 4 volte e può contrarre un matrimonio temporaneo che si chiama sighe. Ma per tutte queste leggi che ho detto, esiste la possibilità che la donna abbia gli stessi diritti a patto che il marito gli concede dall'atto del firmare il contratto di matrimonio, oppure il padre e i fratelli in caso di eredità. Allora vuol dire che una donna può avere i suoi diritti per tutte queste cose del contratto di matrimonio se decide, e questo va normalmente per famiglie che conoscono, che possono decidere, ma un ragazzo in un paesino questo non lo sa fino ad oggi. Le donne per legge non possono candidarsi ad alcuni atti alti incarichi dello Stato, come per esempio la Presidenza della Repubblica, e non possono indossare la toga del giudice. Il DIE, il risarcimento finanziario da versare per aver causato la morte, un danno fisico, il danno ai sensi, è dimezzato nel caso che la vittima sia una donna. Alla donna non è consentito assistere in un stadio a manifestazioni sportive maschili. A tale proposito ricordo la vicenda di Sahar Khodayari, soprannominata la ragazza blu, che nel settembre 2019 si è data fuoco per protestare contro la sua condanna a 6 mesi di carcere per essere entrata nello stadio. Le donne non possono cantare o ballare in pubblico, oppure andare in bici o guidare un moto. Devo parlare qua di una donna coraggiosa che il suo ricordo rimarrà nella storia della resistenza delle donne iraniane per sempre. Homa Darabi, medico psichiatra, era contro il velo obbligatorio e tutte le leggi discriminatorie. Lei rifiutava di portare il velo nella università dove insegnava e nel suo clinico dove curava bambini malati psichiatrici. L'avevano impedito di lavorare. Il 22 febbraio 1994, Homa Darabi, in una piazza nel nord Teheran, ha tolto il suo velo, ha versato petrolio su sé, si è dato fuoco, mentre gridava «Viva libertà, viva Iran!». Dopo il conferimento del premio Nobel per la pace a Shirin Ebadi nel 2003, le donne hanno sentito necessità di creare gruppi per migliorare la loro situazione, organizzando riunioni insieme a lei. Uno dei risultati di questa riunione fu l'avvio di una campagna per la raccolta di 1 milione di firme necessario per richiedere al Parlamento di cambiare tutte le leggi discriminatorie. Pur non raggiungendo il numero di firme necessarie, anche a causa delle intimidazioni e degli arresti delle attiviste, questa iniziativa è servita per informare le donne sulle loro condizioni e sulle leggi discriminatorie in vigore in paese. Altra forma di disobbedienza e proteste molto importanti che è stata in Iran era la campagna ideata da Masih Ahlinejad, una ragazza iraniana giornalista che vive oggi in America, che si chiamava Mia Libertà Nascosta nel 2014, e con il quale lei chiedeva alle donne iraniane di uscire di casa, andare in un posto nascosto e scattarsi una foto e mandare a lei, che lei metteva sul Facebook, su questa pagina Mia Libertà Nascosta, che ha avuto moltissimo successo quell'anno, da 2014 in poi, per qualche anno. E dopo di quello lei ha chiesto alle ragazze di uscire mercoledì con un foulard bianco, così protestando con questo foulard bianco in città, in luoghi che andavano. Che anche questo è stata accettata da donne iraniane di protestare questo. Di questa situazione è uscita un episodio molto importante e bello. Vida Movahedi, la ragazza, il 27 dicembre 2017, uscita da casa, è andata in una piazza affollata in terra e si è tolta il velo, è andata su un cassettone di elettrica e si è tolto il velo e ha messo in un bastone e svetolandosi in aria. Lei è rimasta lì fino a che l'hanno arrestato. Questo gesto subito dopo che lei, dopo 40 giorni che è stata liberata, che abbiamo saputo, altre ragazze hanno imitato questo. Per giorni le ragazze, anche ragazzi, sulle strade di Teheran e altre città andavano fuori e facevano questo gesto, il loro sciarpa a mano e sventolando. Di questa disobbedienza ricordo le ragazze che non potevano andare nello stadio, si mascheravano come maschi, mettevano per sé tutti quelli che potevano essere maschi, entravano nello stadio e anche loro sono stati arrestati diverse volte. All'arresto per l'uccisione di massa Gina Amini, 16 settembre 2022, per mano della polizia morale a Teheran, a causa di un ciocca di capelli usciti dal suo foulard, ha svegliato la società iraniana, spingendola a protestare in tutto il paese, a cominciare dal Kurdistan, finendo a Baluchistan e tutto l'Iran. In risposta, il regime ha attuato una violenta repressione che ha causato migliaia di morti e di arresti, soprattutto i giovani. Il movimento Donna Vita Libertà, nato con l'uccisione di Mahsa Jinnah, continua a lottare nonostante le esecuzioni e gli arresti. Segnalo alcuni nomi di queste giovanissime ragazze che hanno protestato bruciando il velo e sono state uccise brutalmente per le strade. Nika, Nafise, Aida, Sarina, Hengame, Asra. Resistere all'oppressione di genere in Iran ha un costo molto alto: carcere, fustigazione, rovina finanziaria e persino morte. Nasrin Sotoudeh, avvocatessa iraniana, attiva come difensore legale dei dissidenti e vincitrice del premio Human Rights International Bolzano 2008 e premio Sakharov 2012, Narges Mohammadi, attivista vincitrice del premio Fondazione Alexander Langer 2009 e del premio Nobel 2023, sono tra le attiviste che hanno sopportato lunghi periodi in carcere a causa delle loro proteste e del loro attivismo. Forse fuori dall'Iran può sembrare che le voci siano poche, ma non è così. Le donne iraniane con la forza continuano a disobbedire e resistere a questo si vede, e questo si vede nelle strade dell'Iran. Tra questi avete forse visto Ahud Aryai, la studentessa che dalla rabbia per la discussione che aveva avuto con la polizia delle università a causa del suo abbigliamento ha deciso di spogliarsi e cominciare a girare in mutande e reggiseno nel cortile delle università. Oppure Parastu Ahmadi, che ha scoperto con il suo gruppo in un caravanserraglio nel deserto, ha organizzato un concerto che ha poi caricato su YouTube invitando tutti a vedere. Alla fine sono stati più di 2,5 milioni gli utenti che lo hanno visto. Nei giorni scorsi le donne architette hanno partecipato ad una cerimonia di premiazione e sono state sul palco senza il velo. E nello stesso modo le donne giornaliste senza il velo sono andate sul palco a prendere il loro premio. Finalmente in Iran le donne sono coscienti del loro ruolo e sono pronte a cambiare il paese e non torneranno indietro. La resistenza delle donne prigioniere politiche che lottano contro l'esecuzione e a sostegno del diritto della vita è un esempio di questa lotta continua. Da mesi le donne e gli uomini prigionieri politici in 38 prigioni in Iran ogni martedì fanno lo sciopero della fame e protestano contro la pena di morte. Questi giorni tre ragazze curde iraniane sono in prigione e sono attiviste e hanno pena della morte. E questa è una cosa molto grave, che tutto il mondo sta parlando di questo. A Firenze, comune ha conferito per la cittadinanza onoraria a uno di questi, che si chiama Parshan. Ho dimenticato, Parshan Azizi. E oggi nelle strade dell'Iran, nelle grandi città come nelle province, le donne sfidano ogni giorno il regime degli Ayatollah, non rispettando l'obbligo di indossare il velo, e sfidando il regime non solo nelle strade ma anche nei luoghi di lavoro, rischiando licenziamento. Le donne iraniane stanno combattendo una battaglia senza quartiere contro una dittatura teocratica che si fonda sulla loro sottomissione. Come dice Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, l'apartheid di genere dovrebbe essere considerato e conosciuto crimine contro l'umanità a tutti gli effetti. Grazie. Vedete questo concerto di questo Palazzo Ahmadi nel Caravanserraglio. Grazie a Sabri Najafi per la doverosa premessa che fa sicuramente da scenario per poter sentire alcune delle voci di questa antologia. E con Nina ci siamo confrontate per scegliere un percorso e per farci delle domande sul senso generale della poesia al giorno d'oggi nella nostra epoca, ma anche sul senso di queste poesie. E naturalmente non c'è una risposta univoca e forse ognuno e ognuna di voi alla fine di questo piccolo percorso avrà un po' la sua risposta. Nei tempi del Covid ci ricordiamo che moltissimi degli slogan avevano a che fare col conforto delle arti, con la creatività dettata da quell'occasione in cui ci trovavamo costretti. E c'è stata molta produzione in quegli anni, in quei 2 anni sostanzialmente, e sembra quasi che l'umanità necessiti di costrizione per dare dei frutti e per dare voce alla propria intimità. Queste poesie di questa antologia si potrebbero collocare in quella che viene definita la poesia civile, e quindi quella poesia che da una voce interiore passa a una voce esterna e quindi manifesta, e che dalla voce di un soggetto passa alla voce di una collettività, e quindi si fa tramite di quelle che sono le istanze di un gruppo, di una collettività appunto. Le poesie possono essere fortunatamente lette a più livelli, ed è per questo che noi abbiamo scelto un piccolo percorso, ma non commenteremo le poesie, diamo solo voce a queste alcune che abbiamo scelto e per nuclei tematici. Le autrici, che sono appunto gran parte di questo gruppo di scrittori e scrittrici, sono 7, e come diceva giustamente Rossella Renzi, sono quasi tutte donne. Abbiamo visto anche i motivi che spingono le donne a esprimersi primariamente, e poi c'è anche un poeta uomo. Abbiamo scelto dei nuclei tematici che ci paiono attraversare più di una di queste liriche, e quindi avremo una lettura da parte di Nina di questi frammenti in alcuni casi, anche per lasciarvi il gusto poi di andarla a leggere autonomamente, di acquistare il volume e assaporare uno stile e un modo di fare poesia che non è necessariamente consueto, non è necessariamente quello a cui siamo abituati, perlomeno per la poesia europea. Si aggancia molto spesso alla tradizione persiana, che è molto molto antica e che ha diversi tipi di periodi e manifestazioni, ed è un argomento di studio molto, molto interessante e molto complesso. Quindi è una proposta soltanto che vi facciamo di letture, e il primo nucleo tematico è intorno alla violenza subita, alla violenza assistita, alla censura, appunto, come dimostra anche la copertina del libro, all'esilio forzato. Ricordiamo che le autrici e l'autore sono in diaspora, quindi scrivono da esuli, e al sentimento della nostalgia e della lontananza che contraddistingue tutte le persone che sono state costrette in qualche modo ad abbandonare la propria casa, il proprio luogo natio. Quindi adesso con la voce di Nina, che leggerà in italiano ma poi leggerà anche in persiano quando sarà il momento dei testi in persiano, sentiamo uno stralcio da Bombardamento di Mina Sadi. Bombardamento di Mina Asadi. Il bambino non ha potuto bere il resto del tè, non è riuscito a infilarsi le scarpine, non ce l'ha fatta a mettere i compiti nella cartella, non ha potuto rivivere i suoi giorni di giochi estivi, non è potuto crescere fino a diventare un adolescente. Improvvisamente un lampo illuminò il cielo del primo mattino, un rumore enorme fermò il tempo, la vita. Ora piccole scarpe accanto alla porta appesa, una tazza di tè rovesciata, la cartella, i compiti a brandelli, tutto testimonia che solo pochi minuti prima di questo silenzio mortale la passione per la vita brillava su queste macerie. Censura di Ali Abdolrezai. Nel massacro delle mie parole hanno decapitato il mio ultimo verso e il sangue come inchiostro percuote la carta. La morte si stende sulla pagina e la vita come finestra socchiusa infranta da una pietra. Una nuova pistola ha messo fine al mondo e io come merce importata attraverso le porte di questo vicolo sono tuttora la misera stanza emigrata. Io nella mia vita sto come la penna ai versi di questa misera pagina e ne sono la madre. Le zampe del gatto saltellano ancora a mezz'aria per spaventare il topo che corre verso il buco che hanno riempito. Inseguendo la lezione appresa a scuola, non sono più il Jack della mia amata Jill. Ora faccio nuovi compiti, tu li cancelli e dentro alla ragazza che ruzzolerà giù alla fine di questa poesia costruisci una casa dalla porta enorme, aperta come una ferita e tra i bordi della morte come una stanza sparita. Da questa casa viveva felicemente una ragazza che volendo farmi suo mi lanciava bocconi della sua voce per stuzzicarmi fino a raggiungere il tempio del suo corpo per far sì che i miei occhi non ne smettessero mai di vorticare facendo ancora una volta di me un derviscio. Come gli occhi queste orbite vuote tra l'amoreggiare di due diventano mille mani, come questa dimensione dell'essere dove sono in Iran a tante più dimensioni. Dolore di Pat, dolore di Ma, dolore di Frat. La mia condizione è più critica di una ferita per evitare, per evirata di me e la scrittura. No, scusate. Più evirata di me la scrittura. E Londra è con i riflessi climatici sui suoi capelli ancora lì che aspetta in sorellanza che la morte si stenda sul mio corpo, che la vita mi uccida di nuovo. Il mio cuore sanguina per il poeta la cui coda di parole si sta allungando, per il passero senza ramo che ha ingoiato il suo cinguettio, per la restituzione di un corvo senza filo a cui appollaiarsi. Per me stesso, sparito da casa come la corrente, ero qualcuno, ho fatto la cosa più sciocca e sono diventato poeta. A mio parere un anello significa schiavitù, di Minasadi. Non penso ai tappetini da preghiera, ma penso a 100 sentieri che attraversano 100 giardini con filari di alberi dalle nappe di seta. Conosco la direzione della Mecca, ha il suo posto nella contentezza e recito le preghiere quotidiane sulla via della seta al suono dei passeriformi. Non so cosa significhi affetto nella differenza tra una terra straniera e un'altra. Felicità è ciò che chiamo la mia solitudine, la mia casa si chiama deserto e chiamo amore ciò che mi rende triste. Per me qualsiasi banconota significa ricchezza, definisco cieco chiunque raccolga un fiore e ai miei occhi la rete che separa i pesci dall'acqua è uno strumento di omicidio. Guardo il mare con invidia e sento quanto sono insignificante. Non sarà che il mare prova la stessa sensazione quando si unisce al grande oceano? Non so cosa sia la notte, ma il giorno lo capisco bene. Per me un cespuglio di fiori è un villaggio, è una breve passeggiata nei giardini della rimembranza e libertà. E sogno, e ogni sorriso stolto e insignificante è gioia. Chiunque abbia una chiave per me è un carciere e considero ogni pensiero non germogliato nella mia mente un muro. A mio parere, un anello significa schiavitù. Non penso ai tappetini da preghiera, ma penso a se a 100 sentieri che attraversano 100 giardini con filari di alberi dalle nappe di seta. Voglia di Sori. Sori è una città in Iran, da dove probabilmente proviene la poetessa. Oh, erbacce bagnate che sulle rive dei fiumi della mia patria crescete, dite alla berrezza che con tanto amore vi attraversa. Da questa parte del mondo esiste anche qualcuno innamorato del profumo dei vostri corpi. Un altro gruppo di nuclei tematici sono quelli proprio legati al fare poesia, alla creazione, la poesia come vita, come attività creativa, come voce manifesta, come donna creatrice, e rispetto all'origine della parola che in diverse lingue in realtà attinge a diverse radici, vediamo come quella italiana attinge alla radice greca poieio, mentre invece quella poi vedremo della lingua persiana a che cosa in realtà attinge, e anche il nucleo dell'aspirazione alla libertà. Ci siamo interrogate con Nina, leggendo le poesie, se ci sia una speranza che viene consegnata in questi scritti, e ci siamo dette che probabilmente più che una speranza viene data un'apertura, una possibilità e una ricerca sicuramente di libertà. Adesso la prima poesia sarà letta nuovamente da Nina e si intitola Poesie colorate. Dopodiché, siccome le due poesie successive sono di Nina e lei le ha scritte in persiano, faremo una doppia lettura così da farvi sentire i suoni della lingua e anche ovviamente rendervi più facile l'accesso al contenuto. Poesie colorate. Di Mina Asadi. Un astuccio di colori verdi e un vaso di fiori rossi mi hanno invitata a sperimentare quando l'amore si allenta al brulichio dei passeri. Otra tezan. Dar hal kalamei che mi nevi sampart gohist. کدام این صخره خورد نمی شود. من از کسی صحبت می کنم که به انتهای اعتقادش رسید، زنی که با من به پردگاه شعر می رود. در ثبات یک لحظه واژه ها می تبند و تنها الهامی شاعرانه می تواند ناله بی پایان و خموش کم بود را به بوسه های لطیف دگرگون کند. آینه های معتاد رویه ها را لمس نمی کنند و در تنین یقین آنها هیچ برگی نمی لرزد. زن پیراهنش را می درد، برهنگی زنانه او با لپایی که بوسه را می طلبند، لبریز از تجربه زندگی بین هستی و نیستی قرعه می کشد. La forza della donna. In ogni parola che scrivo nascondo maliziosamente un precipizio. Quale roccia è mai rimasta integra? Io scrivo per la donna, giunta alla fine del suo credo, per spingerla nel dirupo della poesia. Nella stabilità di un istante la parola pulsa e soltanto l'estro poetico della poetessa potrà trasformare gli interminabili sospiri della stasi di una mancanza in morbidi baci. Gli specchi assuefatti non sfiorano i sogni e nell'eco della loro certezza nessuna foglia si muove. La donna si sveste, la sua nudità femminea con le supplici labbra dense dell'esperienza del bacio, tra essere e non essere, lancia una scommessa. Tardi d'osodi, در تصویری ثابت می‌لرزد نفس‌های سوزان زن شاعر در بند جریان زندگی با سینه‌های متورم از بوسه‌های نهان و گیسوان بی‌قرار که در آب‌های زلال رها شدند بدون توجه به تصویر بی حرکت در آینه. آمد آن زن شاعر، آمد مثل رویایی که فرار می‌کند از کنترل، و من با دلم او را دیدم و به چشمانش نگاه کردم و پیمان بین من و عفت عشقم ترانه شد بیگانه با شعر من، و من در آستانه اعماق مجهول بودم. آنگاه اشک غریبی ریخت و سپس سکوت. او می رود و در دستانم تردید آزادی را می گذارد، مانند در مقانی گران، و برای لبانم خاطره ای برای ساختن تنین بوسه ها در تصویر ثابت یک نگاه، نگاهی سرشار از عشق. L'incertezza della libertà. Nell'immagine dell'immobilità tremano i respiri arsi della poetessa, assediata dal penetrante flusso della vita, con i seni gonfi di intimi baci e i capelli inquieti lasciati alla limpida acqua, incurante della sua immagine immobile nello specchio. La poetessa è tornata come un sogno che sfugge dal controllo, ed io l'ho incontrata nel mio ventre, l'ho guardata negli occhi, e quel legame tra me e la castità del mio amore divenne un canto estraneo ai miei versi. Ero sull'orlo dell'ignoto, scese una lacrima straniera e poi silenzio. Lei se ne va e lascia nelle mie mani l'incertezza della libertà come un caro dono, e alle mie labbra una memoria per costruire il frastuono dei baci nell'immagine dell'immobilità di uno sguardo colmo d'amore. L'ultimo nucleo che abbiamo individuato è proprio quello della figura del poeta o della poeta come tessitrice o tessitore di sogni, il vocabolo persiano. Sì, poeta da noi è un khayal baf, vuol dire tessitore dei sogni, proprio perché sogna e sogna, insomma, no? Letteralmente è khayal baf, tessitore dei sogni. E ricorre molto spesso nei versi di questa antologia la parola sogno e il verbo sognare. È una dimensione di una terza possibilità, quella che si può immaginare, non può nemmeno magari essere azzardata come speranza, però si può senz'altro pensare a una terza possibilità. Quindi adesso abbiamo un'altra poesia di Athena Farrokhzad, che è il verso denominato 88, numerato così. Athena Farrokhzad, un giorno torneremo e quando si incontreranno i nostri rispettivi dolori per la vita di cui ci hanno privato, qualcosa di orribile crollerà. Odio tutte le mie azioni che mi hanno allontanato da loro. Pianucolo e mi do degli schiaffi, ribellioni tanto insignificanti. Se almeno avessero significato qualcosa per qualcun altro o per me. La qualità più violenta della repressione, dice il mio amato, è la sua casualità. Mi tiene le mani mentre mi fanno strada verso la gola. Non ricordi cosa ha detto tua zia, che un giorno le nostre figlie brinderanno alle loro cugine nella piazza della rivoluzione? Ma ci sarà veramente una rivoluzione dopo la notte della rivoluzione? E apparterrà alle nostre figlie, se ci sarà? E sono davvero le nostre figlie quelle che dormono nel letto? E a quale tipo di lapide ritorneremo? Di Maryam Holule, i sogni appiccicosi di una farfalla bandita. Il fiore che ti ho mandato ieri è appassito durante il tragitto. Essere messo al bando significa questo, lo so. ma annusa il suo stelo. Continuo ancora ad avvicinarmi a te. La civiltà ha divorato le mie paure. Non temo più le decapitazioni sul piatto del mio respiro. Sarebbe stato giusto se almeno avessi avuto mano nella mia dignità. Sorridere obbligatorio per aumentare i privilegi della mia carta, con la mia uniforme e la tintura dei capelli, io i cui versi sono poco chiari in questa rivolta per l'identità di soggetto in uno schema borghese in cui non ho colore. In un paese europeo libero un gene nudo si abbronza sotto il sole come tutti gli altri. È difficile sapere fino a dove ci porterà l'umanità. Non temo la puntura delle zanzare, ma se lascio il mio corpo, di chi sarò l'uniforme? Sono in disaccordo con la mia anima da quando sono diventata socialista nel giorno della resurrezione. Paranoia, paranoia, alleluia, alleluia. Voglio le mie mani, i miei occhiali, i confini morti della felicità. Ridatemi i miei colori. Voglio le mie differenze, la mia sfortuna, il mio certificato di nascita. Voglio che crepi la terra senza testa, la società civile imposa e la sua uniforme per una fotografia in bianco e nero. Grazie, grazie Nina Sadeghi per la... per le letture, per le sue poesie, per le traduzioni, per l'impegno continuo da quando la conosco ma anche da prima nel portare avanti l'istanza e la causa che abbiamo appunto condiviso questa sera. Se avete delle domande da fare, abbiamo forse ancora qualche minuto, se invece siete interessati ai libri e anche ad altri aspetti dell'edizione di queste poesie, abbiamo forse ancora qualche curiosità. Dopo domani. Tra poco c'è la giornata internazionale della poesia, diciamo che abbiamo un po' colto questa. Certo, solo se c'è qualche altra domanda, avete in programma di fare altre cose? Immediatamente forse no, però possono essere create magari delle occasioni, dobbiamo pensarci. Avete qualche curiosità o qualche appunto informazione che può importare? Abbiamo avuto tantissime informazioni e abbiamo condiviso forse anche l'emozione di sentire quante cose forse sono meno conosciute e sicuramente ci sembrano lontane, ma una volta che abbiamo una persona qui sono estremamente vicine. Forse c'è una domanda. Una semplice curiosità: nel video dove c'è la canzone, gli uomini sono iraniani o sono stranieri? Cioè, per l'Iran naturalmente. Sì, video è stato fatto in Iran, per cui sono tutti iraniani. Grazie. Ah, queste persone che vengono arrestate vanno in prigione e poi vengono lasciati dopo, o dipende da come vengono trattati dalle polizie, non si sa. Ma anche tutti quelli che ho detto io, le persone senza velo, queste architette, quelle donne, tutti sono stati arrestati dopo e poi lasciati. Grazie. Qualcos'altro? Vuoi leggere? Se anche non sono un declamatrice, non sono brava nemmeno a parlare, vi leggo una poesia di Simin Behbahani, che era contemporaneo con Farrukh Farrokhzad, solo vissuto fino al 2015, quando Farrokhzad è morto negli anni 60. Patria. O patria, ti ricostruirò anche se con i mattoni della mia anima. porrò le colonne sotto il tuo tetto con le mie ossa. Risentirò il profumo dei tuoi fiori con il desiderio della tua nuova generazione. Ti rilaverò dal sangue con il torrente delle mie lacrime, di nuovo in un giorno luminoso uscirà ogni tenebra dalla casa e con le mie poesie io colorerò il cielo d'azzurro. Anche se sarò morta da 100 anni, rimarrò sempre in piedi sulla mia tomba per sguanciare sguarciare il cuore del demonio con quelle mie grida. Benché io sia vecchia, se fosse tempo di istruzione, ricomincerò la giovinezza accanto alla mia adolescente. Ancora nel petto la fiamma mi è rimasta e dalla sua forza non ho dubbi, perché è caldo quel fuoco delle mie avi. Di nuovo domani, di nuovo donami forza, benché la mia poesia sia finita nel sangue. Da capo ti ricostruirò con la mia vita, fosse cioè anche al di là delle mie forze.